Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Molti scrittori hanno fallito nel tentativo di scrivere romanzi sull'11 settembre, ma ora l'americano Colm McCann ha deciso di parlare anche di quei fatti, narrando però un altro 11 settembre, quello del 1974, quando il funambolo Philippe Petit camminò su una corda tesa fra le due torri gemelle a New York. Il libro si intitola «Questo bacio va dal mondo intero», pubblicato da Rizzoli con la traduzione di Marinella Magri. Intorno all'impresa di Petit si snodano le vicende di vari personaggi. C'è il religioso Corrigan, la prostituta Tilly, la signora Claire, che piange il figlio morto in Vietnam. Una moltitudine di personaggi, come ci spiega lo stesso Colm McCann. New York is a city full of characters, in many ways it's kind of like a symphony, you know? You have a violin, you have a piano, you have drum, and all these people make these different sounds, and all these people have these different voices. It's one of the things I find attractive about New York. I think what's beautiful is its music. And it can also be terrible music sometimes too, but part of what I find attractive about the city is its ability to write its own symphony, yeah? La struttura del romanzo è particolare perché si seguono inizialmente in modo separato le storie di alcuni personaggi, ma c'è un filo comune. Yeah, and there's a definite link. I mean, part of it is they're all linked tangentially by a tightrope walker who goes across the tightrope. But they're also linked by the fact that they're in the same dilemma as the tightrope walker, in the sense that they're all walking their own individual tightrope. Some of them happen to be like 6 inches off the ground. Some of them are 10 meters and as somebody else is 200 or a quarter of a mile in the sky, and part of it is just it all takes place, or most of it takes place, on the same day in New York in 1974, and they sort of collide off each other. It's like little planets, and they spin off each other, and then they touch one another, and they go spinning off in another direction. So they all come together in one story, really. Perché lei ha scelto proprio l'immagine del funambolo, lo ricordiamo, l'impresa di Philippe Petit nel 74 di attraversare le due torri gemelle su un filo, come immagine forte del suo libro, come immagine intorno al quale gira tutto il suo libro? It's very simple to me. It was after 9/11, after the towers came down. My father-in-law was in the first building to come down, or the first building to be hit, the second building to come down. And I lost a lot of friends also, including firefighters, a dozen firefighters who were friends of mine in New York. And I wanted a way to write about 9/11. And it seemed to me that the best way to write about 9/11 was actually to go back into, to write about that destruction. Instead, I write about the act of creation. That, so it's almost like a balancing act, if you will. So I write about Philippe Petit's tightrope walk because that was an act of beauty, a created act of beauty. But what it stands in opposition to is that act of destruction that happened on September 11th. So for me, it was an allegory. Well, it works as an allegory, it works as a metaphor, one for the other. And because it's now my city, even though I'm born in Dublin, I live in New York, and I wanted to write about my city, and I also wanted to write about grace and healing, and how do we learn to recover. Can I just say that it seems to me that the best literature doesn't tell you what to think, but it allows you to feel. Lei in un'intervista ha detto: per me la letteratura è una vita alternativa. Perché? Cosa voleva intendere? Sometimes I say things and I'm completely crazy. Like, I remember about 10 years ago I did an interview and I said that it is a failure of the imagination to write fiction about real people. Right? That's what I said. 6 months later I was writing a book about Rudolf Nureyev. I mean, you have to be careful about what writers say, because sometimes they're just talking, as we say in English, he's talking through your hat, right? In other words, you're just saying nonsense, crazy stuff sometimes. So I don't know. Sometimes I say some things and maybe they're nonsense. E questo era Colm McCann, autore di Questo bacio va dal mondo intero. E ora veniamo a una scrittrice spagnola, Ángeles Caso, autrice del romanzo Controvento pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Claudia Tarolo. È la storia, vera, di una donna di Capo Verde che affronta tutte le difficoltà tipiche di una migrante, prima a Lisbona, poi a Madrid. E così l'autrice ci parla della sua protagonista, Sam. Sam è una donna reale, una donna capoverdiana che io ho conosciuto quando faceva la babysitter da me con la mia bambina, e una donna che ho ammirato tanto per il suo coraggio, per la sua forza, per la sua intelligenza anche. Siamo diventate amiche, poi lei mi ha lasciato per tornare a Lisbona, perché era venuta da Lisbona quando l'ho conosciuta, e ha avuto questa tragedia che io racconto nel libro col suo ex marito, col suo figlio. Quando ho conosciuto tutta quella storia, come la storia ha finito, grazie al suo coraggio, ha finito bene, ho deciso di scrivere questo romanzo perché lei lo meritava, la storia lo meritava. Questa è una storia di una donna immigrata, dunque? Sì, è la storia di una donna immigrata, di una donna che nasce in un paese povero, un paese capoverde, e che non può studiare perché non ha i soldi. Nella sua famiglia sono poveri, che deve lavorare da quando aveva 12-13 anni, ha cominciato a lavorare, che è sempre stata sommessa a quella condizione di poverezza e a quella condizione di violenza maschile che spesso si esercita sulle donne, sulle donne più povere anche di più, ma che è sempre stato anche una donna forte, coraggiosa, che ha delle radici sottoterra immense, no? E un'energia, lei fa come quasi tutte queste donne africane, almeno quelle che io conosco, lei fanno parte della natura, sono delle rocce, vadano contro il vento sempre, sempre. Infatti le figure femminili di questo romanzo sono sempre molto positive, molto forti, invece gli uomini non ne escono molto bene. Ma ci sono degli uomini che escono bene anche, no? Ci sono alcuni che sono buoni, che sono normali, ma questa è una storia reale, dunque, quelle vicende di violenza, di tirannia degli uomini non le ho inventate io, sono reali, no? Sono accadute così. E anche quella storia della donna che diventa l'amica di Sam, che è una storia inventata, purtroppo ho incontrato molte lettrici che mi hanno detto: io ho avuto una vita come quella, con questo padre tiranno, e purtroppo credo che sia una realtà che viviamo spesso, e non soltanto in queste società africane o latinoamericane, ma anche nella nostra società. E so che in Italia avete anche questo problema, in Spagna abbiamo avuto quest'anno in 9 mesi 45 donne uccise, assassinate dai mariti, dai fidanzati, ex mariti, 45, sono troppi cadaveri, è davvero una tragedia e non è sopportabile per una società, credo. Che cosa le ha detto la vera Sam quando poi ha letto il libro? Sam si sente felice, si sente orgogliosa, felice di essere stata compresa da qualcuno, perché queste donne immigrate hanno la sensazione, una sensazione che è reale, perché questa è la verità, che noi gli europei non li ascoltiamo, crediamo che sono un po' come macchine che vengono nella nostra casa, che fanno i lavori, che badano i nostri figli, i nostri genitori, e non ci rendiamo conto che loro hanno una vita propria, una vita profonda, una vita fatta di sofferenze, di dolore, ma anche di speranza, di lotta. E questa era Ángeles Caso, autrice di Controvento. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.